Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi, grazie della cortesia, grazie della vostra attenzione. Come preannunciato, la trasmissione va in vacanza, come tutti gli anni in quest'epoca. Grazie ovviamente a Cristiano Valli per la regia e a tutti coloro che ci hanno dato una mano lungo questi mesi. Ci risentiamo tutti e che l'estate vi sia propizia.